che non sei altro. Ineducato, facchino, bestia. Ha capito, coglione? Va a sfottere tua madre, tua sorella e tuo fratello se ce n'hai. Brutto coglione. Ste baracchino, vero? A ste baracchino, vero? Vuoi che ti mando la questura a casa tua? Ti mando la questura a casa tua. Hai capito? Stanotte ti faccio vedere io, hai capito? Credi che avrò un po' i coglioni a casa tua stanotte? Viene staccato le telefono, hai capito? Perché stanotte avrò un po' i coglioni a tua madre! Continua. Staccati il telefono stanotte perché piombo di telefonata a quella bagassa mamma tua. Hai capito? Coglione! Coglione, ma che cosa stai cercando? Froce che non sei altro. Brutto disgraziato. Fanculo, va a chiedere alla tua madre che se te lo fa, coglione. Basta baracchino, vero? Non ti basta? Fino a che stanotte mi diverto io a svegliare con quella bagazzone tua madre. Pronto? Ma quel fatto lo fa da tua madre, coglione! Ma nessuno ti manda a far culo? Va, figlio di puttana! È fatta ammazzare. Non riponde, registra energia. vai di un casino a dare un buco. Torna a telefonare, tanto registrai che ti denunziai giù. Ah, muta sì. Non rispondi? Registra tu, registra. Baracchino, vero? Vuoi che ti mando la questura a casa tua? Coglione a tuo amico, Coglione! Froscio, se tu sei un froscio!